Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Come tutti i giorni passavo parecchio tempo a giocare con Pony, il mio cavallo. Abitavamo in Argentina all'epoca, 5200 ettari di terra. Allora potevo cavalcare senza rombo, ero in piena libertà, anche se avevo solo 10 anni. Ciao, sono Riccardo, ho 51 anni, e vivo a Francavilla al Mare, in Abruzzo. Sono sposato e ho 3 figli, Martina, Fiorella e Alessia. Il mio gatto, Rocco, l'abbiamo trovato sotto un fico d'India, a Rocca d'Aspide. Sarà Rocca d'Aspide, scusate, provincia di Salerno. Lui ha allungato una zampa come per dire, chinati che ti faccio una carezza. Poi si è arrampicato sui jeans come fossi un albero. L'abbiamo portato in auto per 900 km fino a Carpi, raffreddato e pieno di pulci. Sono trascorsi 10 anni ed ora è qui che mi guarda adorante e non ha perso il vizio di allungare la zampa, Daniela. Il mio animale si chiama Carbon, è l'ultimo di una covata di diamantini. Essendo l'ultimo, da piccolo è rimasto indietro, era a terra nella gabbietta mentre i suoi fratelli già volavano. Tutte le sere lo prendevo, lo dissetavo e gli davo da mangiare. Ora è cresciuto e la sera quando arrivo dal lavoro, è festa grande, mi chiama, io devo avvicinarmi alla gabbietta e mettere il dito fra le sbarre, così lui può giocare a pizzicarmi e salire sul dito, Vincenzo. Axel, il mio Shih Tzu. Fu una sorpresa che mi aspettava a casa un pomeriggio di primavera del 1994, in attesa che tornassi dall'asilo. Ci ha tenuto compagnia per 15 anni. Federico. Sono le 16:04, in anticipo rispetto al solito. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e questo programma si chiama Voi siete qui. Ogni storia, ogni giorno una storia, ogni storia un pezzo di vita, ogni pezzo di vita una persona che la racconta. Mi sa che ho cambiato gli addendi. Era diverso, Paolino. Era ogni giorno una persona, ogni persona un pezzo. Però il risultato è lo stesso. È lo stesso perché oggi si parla della storia di Riccardo, che è di origine argentina, come avete sentito, però vive in Italia. E la sua storia però non ha nulla a che fare con questo, col suo essersi trasferito in Italia. Non sappiamo nemmeno quando, glielo chiediamo più tardi. Ma parla dell'incontro con un animale. Con un animale che non era nemmeno stato preso per lui, era stato preso per la sorella, ma che di fatto è diventato il suo. Questo animale, questo cavallo, racconta talmente tanto di lui che lui ha deciso di prendere questo pezzo di memoria e di metterla in pasto così a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Noi lo ringraziamo per questo e lo ringraziamo perché ci fa parlare di questa cosa che è una cosa di cui non è che non si parli, ma spesso si parla degli animali e ci si parla semplicemente di quando com'è patatone il mio cane, ma che bello patatone. E invece oggi no, vorremmo proprio semplicemente parlare di come è stato il giorno in cui avete incontrato l'animale che poi vi ha tenuto compagnia, che sia un cane, che sia un gatto, un pesce, un uccello, un serpente, un cavallo, il modo in cui l'avete incontrato, come, dove eravate, cosa è successo, come si è comportato lui e come vi siete comportati voi. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Beniamina, la mia cagnolina Jessie, l'ho sentita lamentarsi un giorno in campagna dai miei. Ho seguito il suono, mi sono trovata un batuffolino color miele che troppo presto era stato separato dalla madre. L'ho preso in braccio, eccetera, eccetera. Proprio quel momento lì, il momento in cui vi siete conosciuti, voi e il vostro animale. Sono arrivate diverse storie che parlano di cani. Potrebbe essere una categoria queste, no? Animali. Questa però è una storia particolare perché la storia di Riccardo non parla solo di quel momento lì, parla di un periodo della sua vita e di come quel cavallo, come l'incontro con il cavallo e anche il saluto dal suo cavallo abbiano rappresentato una parte probabilmente della sua infanzia. E visto che oggi parliamo di cavalli, io voglio raccontarvi una storia molto particolare insieme a quella di Riccardo, che più o meno comincia così. He's quite a horse, Albert, but for now his place is with the army. Oi, Albert Narcott, do solemnly swear that we shall be together again. Questo pezzo, che è un estratto, è un piccolo trailer di una di uno spettacolo teatrale che poi è diventato un film che si chiama War Horse, cavallo da guerra. Più tardi ve lo spiego meglio. Questo però, diciamo, è una storia magnifica che assomiglia tantissimo alla storia di Riccardo. È l'incontro di un bambino e di un cavallo, di come questi due crescono e di come a un certo punto si separano. Nella storia di Riccardo si separano per sempre, in War Horse invece a un certo punto si rincontrano. Forse avete visto il film di Spielberg, probabilmente, però lo spettacolo è ancora più bello. Prima di partire con la storia di Riccardo, io voglio leggervi la lettera che ci ha mandato, perché questa lettera... sapete, alcuni di voi, dove per voi intendo alcuni di quelli che mandano le storie a questo programma, decidono se semplicemente fare un copia e incolla del formato Word o RTF che è con dentro il racconto, o semplicemente scrivere il racconto direttamente nel corpo della mail e basta. Altri invece accompagnano il racconto con qualche riga. Riccardo è uno di questi. E niente, ogni tanto, anche ieri l'ho fatto, però ogni tanto mi piace leggere queste mail. Mi chiamo Riccardo Formento, ho 50 anni, vivo in Italia, in Abruzzo dal 1989. Sono sposato e ho 3 magnifici figli. Adoro l'Italia. Ascolto Radio 24 quando sono in viaggio e voi siete qui, mi affascina, eccetera, eccetera. La mia storia, questo è il pezzo interessante, cioè interessante perché spesso, come diciamo con Tiziano, noi capiamo molte più cose facendolo il programma che non immaginandolo e ascoltando quello che arriva dalle persone che lo ascoltano. La mia storia era sepolta nel mio inconscio e ascoltando il vostro programma mi riaffiorò. Non è stato tanto bello, ma adesso che l'ho scritta mi sento meglio. Non ho mai scritto la mia storia in questo modo e chiedo scusa per gli errori. Sei perdonato, non ce n'erano. Però sono sicuro che voi la saprete correggere e leggere magnificamente. Un grande abbraccio, non mollare mai, mi scrive Riccardo. Non so a cosa si riferisca, però Riccardo, no, non so se ti riferisci a... noi non molliamo mai, neanche di là dal vetro. Insomma, ci proviamo. 349-238-6666. Qualcuno mi scrive: ho una bella storia sul mio incontro con i Galli Sciamo. Solo che l'ho già letta, è certo che l'ho già letta, Paola, me la ricordo. E come, i Galli Sciamo sono quei galli giapponesi, credo. Sciamo qualcosa, forse solo Sciamo. Sono dei galli strani, molto belli, però forse non sono giapponesi. Paola, se mi sono sbagliato, correggimi. Qualsiasi sia l'animale che avete incontrato. 349-238-6666. Questa è la storia di Riccardo, questa è la storia sua e del suo cavallo. Venando Tuerto, provincia di Santa Fe, Argentina. Era una fredda mattina di agosto, me la ricordo perché era appena passato il compleanno di mia sorella. Come tutti i giorni, passavo parecchio tempo a giocare con il mio cavallo, Pony. Abitavamo in una fattoria in Argentina, 5.200 ettari di terra. Allora potevo cavalcare senza rombo, ero in piena libertà, anche se avevo solo 10 anni. Quel cavallo non era stato comprato per me, ma per mia sorella. Solo che lui capì subito che io lo volevo con tutta la mia anima. La mia passione è nata praticamente da piccolissimo, perché sono cresciuto fra i cavalli. Anche senza saper camminare, mia madre mi montava su una cavalla che era troppo, troppo buona e io passavo del tempo di sopra. Nessuno riusciva a montarlo, nemmeno mia sorella. Il cavallo era stato comprato per lei. Era un cavallo Tobiano Baio, razza creola argentina, molto brioso. E quella mattina mi diede un esempio di vita. Aveva piovuto, la terra era viscida, perciò era pericoloso correre. Io non lo sapevo e lo feci galoppare. Ma quando dovette girare, scivolò e cadde. E io sotto di lui. Mi schiacciò sul fango con tutto il suo peso. Persi il respiro, non potevo muovermi. Sentivo freddo, molto freddo. Lui si alzò rapidamente e piano piano si avvicinò a me. Sentivo il suo muso, il suo respiro. Quasi mi riscaldava, mi dava conforto, in qualche modo, senza toccarmi. I cani intanto erano già andati via, erano tornati a casa, ma lui no. Lui continuava a stare lì e ad aspettare. Io sentivo solo il freddo e un silenzio atroce. Il suo respiro era ancora sul mio viso, forse capiva che si trattava solo di tempo e che mi sarei alzato. E così fu. Lentamente mi tornò l'anima in corpo. Riuscì ad alzarmi e lui si allontanò di qualche metro, guardandomi. Quando cercavo di avvicinarmi, lui si spostava. Era chiaro che non voleva che lo montassi di nuovo. Era chiaro che mi stava punendo per la mia avventatezza. Sono dovuto tornare a casa a piedi per non so quanti chilometri. Quando mi vide arrivare, mia mamma mi domandò cosa fosse successo. Le raccontai. Lei non mi rimproverò. Si limitò a dirmi di cambiarmi gli abiti sporchi di fango. Mio padre al ritorno vide Pony con il freno in bocca e mi chiese perché lo avessi lasciato così. E poi mi disse che quella sarebbe stata l'ultima volta che lo facevo. Il mio cavallo quella mattina mi aveva insegnato tanto. Mi aveva insegnato ad avere rispetto degli altri, ad avere un po' di timore e soprattutto a non correre senza alcun valido motivo. E il giorno dopo fu come se nulla fosse successo. In tutti quegli 11 anni vissuti in campagna, gli animali mi hanno insegnato tanto, soprattutto i cavalli, ma anche i miei cani, ne avevamo 14. Ho imparato tante cose anche semplicemente osservando gli uccelli. Vedere lavorare senza sosta un pacaro cornero, l'uccello fornaio, che fa il suo nido di fango tutti i giorni, tranne la domenica, è una cosa meravigliosa. Dagli animali ho imparato soprattutto il rispetto per se stessi. Loro solo con lo sguardo ti fanno capire delle cose e tu li devi rispettare. Un anno e due mesi dopo quella mattina in cui cadi nel fango, nello stesso pezzo di terra, mio padre, che aveva appena 40 anni, perse la vita, colpito da un fulmine. Mentre al suo cavallo, Tordillo Blanco, non successe nulla. Fu l'ultima volta che vidi quella terra. Poco dopo ci trasferimmo in città. Il mio cavallo lo portai con me, lo tenevo in un fazzoletto di terra da amici, ma non resistette a lungo. Mi obbligarono a venderlo. Lo portai in una feria domenicale e subito me lo portarono via. Nel mio cuore, però, vivrà per sempre. Io con le storie degli animali ci passerei le giornate. C'è qualcosa di educativo, di ammagliante e di commovente nella narrazione sugli animali. Ho sempre cercato di capire che cosa ci sia nel comportamento e nella vita degli animali che è così interessante. Cioè, interessante al punto che starei anche a guardarli per ore mentre fanno pochissime cose, pochi gesti, pochi movimenti. Non lo so, forse è il fatto che non c'è mai nulla di insensato, mai nulla fuori luogo in quello che fanno. Ho visto di recente uno splendido film della BBC che si intitola One Life e racconta le vite e le strategie di sopravvivenza che alcuni animali si sono inventati per sopravvivere in luoghi ostili e spesso pieni di predatori. Ci sono insetti come le formiche tagliataglia, ad esempio. Sono delle formiche che vivono in Australia e passano tutto il loro tempo tagliando fili di una particolare erba che poi prendono e trasportano nella tana. La cosa curiosa però è che l'erba non è il nutrimento. Quell'erba serve ad alimentare una muffa che è il vero cibo di cui loro si nutrono. Questo fungo, cioè questa muffa però, rilascia un gas che è estremamente nocivo e quindi per sopravvivere a questi fumi che sono letali, le formiche creano dei veri e propri camini di aerazione in punti ben precisi del formicaio. Ma è affascinante in questo film anche la storia del topo ragno. Il topo ragno è un incrocio a metà tra un criceto e un formichiere che ha poca destrezza ed è molto lento, quindi l'unico modo per sopravvivere è quello di conoscere a memoria le proprie vie di fuga. E quindi sto topo ragno disegna e poi crea delle piste piene di curve, tunnel, che conosce alla perfezione solo lui e che rappresentano il suo modo per sfuggire ai nemici e sopravvivere. Certo però è che la storia di Riccardo e del suo cavallo è ancora più bella, perché parla di un uomo e di un animale, e poi perché, vabbè, il cavallo è una bestia meravigliosa. E la sua storia mi ha fatto venire in mente uno spettacolo, come vi dicevo prima, splendido, che ho visto qualche tempo fa. È uno spettacolo inglese, vi dicevo, si intitola War Horse. Poi dallo spettacolo Spielberg ci ha fatto sto filmone, solito filmone hollywoodiano. Tutto però nasce da un romanzo per ragazzi, è una storia per ragazzi, scritta nel 1982 da uno scrittore inglese, si chiama Michael Marpurgo. La storia è questa qua, è quella del cavallo Joy e del suo padrone, un ragazzo che si chiama Albert. E proprio come nella storia di Riccardo, Albert è l'unico in grado di interagire con Joy. Una volta cresciuto, Joy diventa uno splendido esemplare e viene venduto dal padre di Albert all'esercito inglese per farne un cavallo da guerra, cavalleria. Tra mille perizie e mille pericoli, Joy sopravvive alle battaglie e intraprende un'incredibile odissea per tornare indietro. Il suo padrone Albert, seppure giovanissimo, intanto si arruola nell'esercito per cercare il suo cavallo. E alla fine si ritroveranno in una scena strappalacrime poco prima che Joy, ormai in condizioni orribili, venga soppresso. La storia è splendida, ma lo spettacolo lo è ancora di più, perché questi cavalli in scena, seppure abbiano dimensioni naturali, non sono animali, sono in realtà delle enormi marionette, mosse da 3 marionettisti all'interno e all'esterno del cavallo. E per quanto non siano per nulla realistici, quello che si vede dalla platea sono cavalli in tutti i sensi, nel modo di muoversi, di comportarsi, perfino nel modo di respirare. E non so cosa ci sia di struggente, forse il fatto che in quel caso non sono gli animali a fare qualcosa per la vita degli uomini, ma sono 3 uomini impegnati a dare vita a un animale. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. La la la la la la la la la la la. Ho adottato un greyhound, arriva sabato dall'Irlanda, sono emozionatissimo. Ciao Marco, quello è un incontro che sarà all'aeroporto, l'incontro col greyhound. Oh, alla stazione degli autobus. Questa era veramente orribile. Ti chiedo scusa Marco, il greyhound è il levriero, giusto? Di solito sono quelli che vengono salvati dalle corse, che arrivano qui magri magri e spaventati. Uno dei più bei momenti della mia vita. Wow, Dina. Prendo il trasportino dal sedile posteriore dell'auto del mio vicino di casa che mi porta Callie e Jane dalla Toscana. 2 gattine. Callie mi ha già lasciato, Jane invece convive in simbiosi con me. Dina, poi questo, diciamo, esiste il fenomeno delle cosiddette gattare, detto con amore, che sono appunto soprattutto le donne, gli uomini un po' di meno, le donne però hanno questo rapporto simbiotico con i gatti, con i loro gatti. Mia mamma, che in realtà non ha più gatti, però le piacerebbe tanto averli, è un po' di quella categoria. Intanto gli dico, mamma, te rischi di diventare una gattare che va in giro a dare, sai quelli che mettono nei contenitori di plastica dell'insalata, no, il cibo per i gatti, di solito fuori dagli ospedali. 349-238-6666. La storia di Riccardo l'avete sentita per tutto quanto, per l'Argentina, per l'incidente, per come sopravvive e poi anche per come muore il suo babbo colpito da un fulmine. In quello stesso punto sembra davvero un romanzo di García Márquez, no? Di questo Aureliano Buendía che racconta una storia che si tramanda nel tempo. Però Riccardo, fortunatamente, più che magico, è molto reale, è qui al telefono con noi. Spero con un telefono migliore di prima. Pronto Riccardo? Pronto. Ah sì, decisamente migliore. Prima ci siamo sentiti, ho temuto per un attimo che non avremmo capito niente della telefonata. Sei arrivato a casa quindi, Riccardo? Sì, per fortuna. Come stai? Sto benissimo. Senti, sei a casa a, mi ripeti il paese dove abiti? Francavilla al Mare, in Abruzzo. E cosa fai esattamente a Francavilla al Mare? Io sono venuto in Italia per fare karate, mi ero appena avuto la cintura nera, sono venuto da che c'era un amico. Dopo, conoscendo l'Italia, mi sono innamorato e ho voluto rimanere qui, in questa terra. Cioè, sono tornato in Argentina, e ho sposato mia fidanzata e siamo tornati qui e sono quasi 22 anni che siamo qui. Cioè, tu eri un atleta, quindi? Sì, eri un atleta. Sei un karateka? Sto scherzando perché adesso sono fermo, insomma. Ma non insegni, non fai un'attività legata al karate? No, adesso no. E cosa fai? Fai tutt'altro nella vita? Sì, lavoro per una ditta di trasporto che fa trasporti eccezionali e lavoriamo negli impianti petroliferi, nei pozzi petroliferi. Ma scusa, ci sono dei pozzi petroliferi da quelle parti? In tutta Europa. No, in tutta Europa lo immagino, però. Sì, No, lì vicino a dove abiti, in Abruzzo. Anche sì, ci sono piattaforme di gas e molte piattaforme. Ah. Ma scusami, torniamo un attimo al karate, poi andiamo a tutto il resto. Facevi gare, quindi eri un professionista? Dilettante, facevo le gare, sì, ho avuto quasi 50 trofei quando facevo le gare. Dopo sono venuto in Italia e ho gareggiato anche qui, dopo ho avuto un incidente, mi sono rotto le due gambe e ho dovuto fermarmi, insomma. Ma facendo karate? No. Ah, incidente, okay. Un piccolo incidente stradale, fermo per tanto tempo, allora... Ho capito. Non ci si fa male durante uno scontro di karate, o sì? No, ci sono le probabilità che puoi fare male come in qualsiasi altro sport, no? Però questo è un po' quello che dicono gli sportivi che fanno sport pericolosi, tipo i rugbyisti dicono no, ma ci si fa più male giocando a calcio. Poi guardi una partita di rugby e li stimi per tutta la resistenza che hanno, oltre che forza, eccetera, eccetera. Riccardo, hai degli animali adesso? Ho una gatta. Abbiamo una gatta in casa che tra l'altro è ben voluta di tutti quanti, i miei figli e mia moglie la amano. Ma quando io gli parlo, lei mi risponde. In che modo? Mi risponde col suo suono, no? Nel suo... è l'unica persona che le risponde. Io gli parlo e lei mi risponde, non lo so perché. E che il tuo cavallo, dalla tua storia, si capisce che ne hai perso totalmente le tracce. Sì, totalmente. Anche quando sono tornato ho cercato, si è perso. Ma qual è l'età media di un cavallo? Questo di preciso non lo so dire, comunque noi avevamo una cavalla, quella cavalla dove mia madre mi metteva sopra e ne aveva 13 anni in quel momento, poi ha vissuto più di 25 anni quella cavalla, non lo so poi quanto riescono a vivere. E non vai più a cavallo tu? Sì, in gennaio del 2012... siamo stati in Argentina, poi siamo andati a Mar del Plata, la costa, e abbiamo affittati dei cavalli e abbiamo fatto delle passeggiate. Mi sono sentito rinascere. Quanti anni hai, scusa Riccardo, non mi ricordo più. 51. Ah, è che hai la voce di un ragazzino, sembri un 25enne. Hai tre figlie? Due figlie È un maschio. E non gli fai fare attività legate agli animali, al cavalcare o cose del genere? Lo volevo fare, però sai, a volte tutto non si può fare. Loro anche fanno... mio figlio fa calcio, mia figlia fa patinaggio, faceva pure karate e pure primo dan. Sì. Tutte e due. Io, il mio maestro di tennis, Flavio, è di origini argentine e è più o meno in Italia da tanto tempo quanto ci sei tu, forse un po' di più. E ogni volta che ci vediamo, lui comunque parla sempre un po' dell'Argentina. In qualunque discorso, lui un po' l'Argentina ce la infila dentro e mi dice sempre... Sì, vabbè, ma io poi prima o poi ci tornerò. Poi ama tantissimo l'Italia, è sposato in Italia, ha figli italiani. Rimane questa cosa per cui si vuole tornare in Argentina? O tu ti senti italiano, vuoi stare qui? Uno dove è nato penso che non lo dimenticherà mai più, anche se ti ha fatto male. Io non ho il desiderio di tornare per la mia terra. L'unica cosa è che hai gli affetti lontani, no? Solo quello. Dopo... io non ho il bisogno fortissimo di tornare, mi ci trovo bene qua, mi manca quando sono stato 5 anni in Argentina, dal 97 al 2001, e mi mancava Italia. Ok, Riccardo, ti ringrazio. Ascolti, cosa ascolti di Radio 24? Tutta la programmazione o solo una parte? No, dal mattino e poi... Fino alla sera? Sì, la sera alle 4, dalle 16... alle 5 meno un quarto e poi dalle 6 e mezzo alle 8 e mezzo. Ok, Riccardo, ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Buona giornata, un abbraccio. Ciao, grazie Riccardo. Voi siete qui. È in cima a un valico, Riccardo, nella foto che ci ha mandato, un valico... boh, direi alpino, ma solo perché suona bene, non so, è una montagna però, c'è della neve, anche se probabilmente non è così freddo, non è inverno, è proprio che è in cima, è accanto a una motocicletta che credo sia una, boh, forse una TDM, credo sia una Yamaha, grigia metallizzata, lui ha la tenuta da motociclista, è bello piazzato il nostro Riccardo, ha anche una bella pelata di quelle pro rasate, perché... forse non ho tanti capelli, allora faccio prima, va, me li rado tutti. Abbigliamento da ciclista, due caschi appoggiati sulla sella, quindi di qua dalla macchina fotografica ci deve essere per forza, immagino, sua moglie. Cavallo, sostantivo maschile, mammifero perissodattilo degli equidi, diffuso in tutto il mondo, probabile derivato da una specie selvaggia tuttora vivente in Mongolia. A testa allungata, orecchie lunghe e diritte, collo con folta criniera, mantello di colore vario, arti in cui solo il terzo dito è fortemente sviluppato e protetto all'estremità da un'unghia molto spessa, detta zoccolo. Pezzo degli scacchi raffigurante la testa e il collo di un cavallo. Etimo, latino, caballum, cavallo da lavoro. La nostra Alessandra De Luca, quando dice, a parte che quando dice qualsiasi cosa la si starebbe ad ascoltare, ma quando dice queste parole così complicate, non diciamo, le acquisisco, ma devo ancora capirle. Tra l'altro diceva Alessandra che qualcuno le ha scritto che insomma quelle cose orribili, quei finti errori che faceva. Niente, Alessandra, uno anche a provarci a fare le cose fatte per bene, la gente non ci crede. Allora niente, non le mettiamo più, mettiamo solo le robe pulite di Alessandra De Luca. 349-238-6666. È arrivato questo messaggio di Alberto da Roma a proposito di incontri con animali. Erano gli anni 90, le Maldive. Gaetano, mio amico, faceva la guida sub. Ogni giorno alla stessa ora si faceva a nuoto il giro dell'isola e ogni volta un grosso squalo pinna bianca si affiancava, così per mesi. Il ragazzo e lo squalo furono un'attrattiva del villaggio. Tornai qualche anno fa. Il mio amico era mancato a 27 anni e volli tornare. Lo squalo mi si affiancò, era ancora lì e nuotò con me. Erano anni che non si vedeva, mi dissero. Era per me il mio amico che tornò a salutarmi. Alberto da Roma. Alberto, guarda, non so se sta storia è vera, ma è talmente composta bene che mi piace. Voglio leggervi l'inizio, visto che ve ne ho parlato per tutta la puntata, l'inizio di questo racconto, di questo romanzo per ragazzi, da cui è tratto lo spettacolo e il film War Horse. Questo è l'inizio, l'autore si chiama Michael Marpurgo. I miei primi ricordi sono immagini confuse di colline, campi e stalle, umide, cupe, piene di topi che corrono sulle travi sopra la mia testa. Mi ricordo però molto bene il giorno della vendita dei cavalli. Quel giorno terribile mi ha accompagnato per tutta la vita. Io non avevo ancora nemmeno compiuto 6 mesi. Ero un poledro allampanato, che non era mai stato più lontano di pochi metri dalla madre. Quel giorno invece io e lei fummo divisi nella terribile confusione dell'asta dei cavalli e da quel momento non l'ho più vista. Mia mamma era una bella cavalla da fattoria. Era forte e resistente, forse anche per via del suo sangue irlandese. Lei fu venduta in pochi minuti e prima che riuscissi a seguirla fino all'uscita era già scomparsa dalla mia vista. La mia vendita invece fu molto più difficile. Non saprei dire il perché. Forse era per via di quello sguardo selvaggio nei miei occhi mentre giravo alla ricerca di mia madre. O forse perché nessuno dei contadini o degli zingari presenti all'asta stava cercando un puledro puro sangue magrolino. Qualunque fosse la ragione, loro mercanteggiarono a lungo a riguardo di quanto fossi piccolo, di quanto fossi magro, fino a quando sentii il rumore del martello che batteva. E a quel punto fui condotto fuori dal cancello e infilato in un recinto all'esterno. Non male per 3 guinee, no? Non male per niente. La voce che sentii era dura e spessa di alcol. Apparteneva quasi sicuramente al mio proprietario. Mi portò a casa e mi fece entrare in una stalla. Fui lasciato lì, senza acqua né cibo, mentre lui inciampava via nei ciottoli del cortile della fattoria. All'improvviso ci fu il rumore di una porta che sbatteva e delle voci che si avvicinavano. 2 teste apparvero alla mia porta. Una era quella di un ragazzo giovane che mi osservò a lungo, prima che il suo viso esplodesse in un sorriso splendente e dicesse: «Mamma, questo diventerà un cavallo coraggioso». I lay my head down on the track again. Yeah, they say the whistle blows for me, but I don't hear. As it comes my way, I see the moon shining through the trees. And as the fog rolls through the night, night I feel a push and then I'm blowing through the breeze. Ogni tanto succede, soprattutto per le storie ben scritte o ben raccontate o semplicemente particolarmente belle, che qualcuno scriva, che si domandi se sono vere. La domanda è, la risposta è sì, anzi la risposta è: sarebbe molto più complicato ogni giorno inventarsi una storia diversa, vi assicuro, piuttosto che chiederle come facciamo, riceverle e mandarle in onda. 349-238-6666. Ci sono un po' di orfani della borsa a cui devo giustamente delle spiegazioni, perché ho lanciato la borsa e poi non c'è stata. Oggi non c'è la borsa perché credo che i giornalisti fossero in un'assemblea sindacale, quindi ritornerà però a breve, no? Non durano tanto, ma non sappiamo, chi lo sa, se tornerà la borsa, forse non tornerà più, mai più, forse domani, o chi lo sa. Matteo, un po' di geografia economica ti servirebbe proprio, mi scrive Marco da Treviso. Marco, la risposta è sì, però non so a cosa ti riferisci. Sicuramente però mi servirebbe. Grazie a te, grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Grazie soprattutto a Riccardo. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Giuseppe, la storia di domani è la mia e parla del mio sogno di essere calciatore, durato purtroppo soltanto poche settimane. Questa è la mia storia, io sono qui.